adesso voglio solo il silenzio della mia stanza, restarmene in calma ad ascoltare per ore, lasciare i miei pensieri liberi nella mente, abbandonarmi al ritmo travolgente del tempo. E mi accorgo di quanto poi fragile sia il filo che mi trattiene. Quante volte avrei fermato un attimo, un istante della nostra vita insieme, perché avevo paura che un giorno come un altro, sarei rimasto solo improvvisamente. Come si può capire questo? Sentire che siamo solo niente e reggere un peso che è così, così grande. Tornano stagioni che riportano profumi e chiare immagini di ieri nell'aria che riempie la mia stanza. Posso già sentire distintamente il rumore delle onde del mare e mi sembra che Roma diventi una nave che solca il cielo dell'estate, che si allontana lungo rotte che mai pensammo di tracciare oltre il limite estremo dell'ultima tule. Ora che resto nel silenzio posso ascoltarti chiaramente, posso distinguere ancora la tua voce.